si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Con Paolo Corleoni in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta quest'oggi. Buongiorno a tutti. Milano, Monterosa. Sole. Bello, direi che potrebbe essere una bellissima giornata. Solo buone notizie. L'unico, l'inimitabile programma caccia sempre di buone pratiche, di buone notizie. Ma nella puntata della domenica facciamo un ripassone della settimana. Di tutte anche perché ci piacciono anche quelle brutte poi alla fine. Ogni tanto sì. Cioè sì. Ci piacciono, non ci piacerebbero, ma ci sono. Che ci piace fare? Cercare di vedere se dentro in quelle brutte c'è anche qualche cosa di buono, ecco. 800 24 00 24, qual è la vostra buona notizia della settimana? Chiamateci e poi giocate con noi. Oggi cerchiamo un personaggio che ha una notizia di questa settimana, cioè una notizia che riguarda un sacco di gente, diciamo, nel mondo. Ho già dato un indizio. Ai, come facciamo? Vabbè, dai, quello istituzionale. Diamo l'indizio istituzionale. Dimenticate quello che abbiamo detto fino ad ora. Il nostro personaggio ha ottenuto una grande vittoria questa settimana. Perfetto, perché abbiamo dall'alto degli ordini dare degli indizi non troppo facili, perché sennò si vincono i premi troppo facilmente. Tra poco vi diciamo anche qual è il premio che mettiamo a disposizione oggi. 800 24 00 24, direi che possiamo partire. Andiamo, sì, signori. Via. Allora, c'è subito una notizia di questa settimana che sicuramente ce la siamo persa, perché insomma, presi tra la dimissione di Marino, presi dal bagarre in Senato, la riforma del Senato, eccetera eccetera, ci siamo dimenticati di dire che nel mondo diminuisce la povertà mondiale, perché lo stima la Banca Mondiale, anche se qualcuno dubita di questi dati. Adesso magari diciamo anche brevemente perché per la prima volta siamo scesi sotto il 10% della popolazione in condizioni di povertà, di indigenza. Meno di 700 milioni di persone nel mondo. Pensate che nel 90 erano quasi 2 miliardi. L'ultima rilevazione era del 2012, 900 milioni, adesso siamo a 700 milioni di persone. Sono mi verrebbe quasi da dire, si sta abbassando la povertà ma non se ne accorge nessuno. Po' come a Roma che aumenta la raccolta differenziata ma non se ne è accorto nessuno, tanto che Marino si è dimesso per gli scontrini. Ma questa è un'altra questione, adesso non apriamo subito. Ma io non volevo entrare in Marino, volevo giustamente dico, la tua sembra un'ottima notizia. Sai perché questi dati sono notizia. Contestati, dicono alcune associazioni che si occupano di questo nel mondo, in Africa, la fame nel mondo eccetera, che la Banca Mondiale stima i redditi minimi delle persone e questi redditi stanno aumentando, però in alcuni casi magari prima con un reddito pari a zero avevi comunque un sostentamento, un orto familiare o qualcosa del genere, adesso magari con un reddito però non riesci, anche se hai un reddito che prima non avevi, è che il reddito non è tutto, soprattutto la Banca Mondiale calcola solo quello, sulla qualità della vita non c'è semplicemente il reddito. Se però, tu vivi in un posto dove appunto coltivi le tue zucchine, poi stai magari meglio e magari guadagni zero, però in realtà stavi meglio di adesso che guadagni 10 lire ma non sai, però non puoi comprarti nulla. Però queste statistiche sono comunque importanti. Sì, assolutamente, perché, insomma, e noi gioiamo. Sono statistiche ufficiali e dicono questo, diminuisce la fame nel mondo, va bene. Adesso veniamo invece a notizie, come dire, più nostrane, più brutte, nostrane. Volevi dire. Insomma, la riforma del Senato, che dobbiamo fare? No, diciamo tutta intanto la settimana direi questa, sì, dobbiamo piazzarla nei giorni, tutta la settimana. Andiamo veloci, arriviamo alle conclusioni. Martedì prossimo ci dovrebbe essere il voto finale. Cominciamo con un'Anna Finocchiaro soddisfatta per l'intesa raggiunta. Sentiamola. Lasciatemi dire, io non posso nascondere, sarei ipocrita, la soddisfazione per il fatto che a questo traguardo arrivi unito tutto il mio partito e tutta la maggioranza. Allora, l'unione, l'intesa raggiunta è questa, insomma, sul metodo di nomina o di elezione appunto dei nuovi senatori, del nuovo senato, il senato ridotto con funzioni minori. Sapete che c'era una parte dei parlamentari che chiedevano, soprattutto nella minoranza del PD, ma non solo, che non cadesse l'elettività in maniera completa di questi nuovi senatori che saranno scelti tra i sindaci e i consiglieri regionali. Ebbene, al momento delle elezioni dei prossimi consigli regionali, l'elettore potrà indicare quali tra i consiglieri regionali che si stanno eleggendo saranno poi nominabili in Senato. Complicatissimo. Peccatissimo. Ma nel senso che quello vale così come elezione o è semplicemente indicativo? Questo è da capire, perché il meccanismo non è ancora consiglio, stato messo. È così, è un po' come il sinodo, che tutti si mettono, danno un consiglio, ma poi alla fin fine decide il Papa. Qualcosa del genere. Allora, poi la bagarre sui gestacci di Barani, l'avete visto? No, visto no, perché non ci sono immagini, l'avete sentito tutti durante il dibattito, proprio su questo articolo che riguardava l'elezione dei futuri senatori. C'è stata tutta una bagarre. Barani avrebbe mimato un gesto sessuale, una fellazio, diciamolo pure, alla faccia di una senatrice. Diciamolo pure, perché ormai abbiamo trovato la parola che si può dire, anche in radio, esatto. E anche mia mamma è tranquilla. Alla senatrice Barbara Lezzi Grillina. Ma Danna e Barani, i verdiniani incriminati, che poi sono stati puniti da Grasso con la sospensione di 5 giorni, dicono che a cominciare come dai bambini, sai, hanno cominciato loro i 5 Stelle. Sì, un po' così. E un po' l'altra cosa che continuavano a dire è: voi non avete il video, non avete le immagini, che è uguale. Dobbiamo capire da dove è venuta e di che tipo è stata la provocazione. Perché Danna, né io né Barani siamo due psicopatici, chiaro? Quindi sanzionare una reazione e non sanzionare chi proditoriamente l'ha provocata mi sembra una grande ipocrisia. Non lo so, io non so che cosa hanno percorso nella loro mente per poter dare 5 giorni a noi a loro per questa cosa e a noi 30 per aver gridato onestà. Lo trovo vergognoso. Allora, io l'ho già detto anche l'altra settimana, sicuramente, insomma, Barani e Danna sono due che non so come dire, cioè fare quello che ha fatto Barani, se lo ha fatto, il quale poi ha negato il gesto ma ha chiesto scusa, perché se è stato malintenzionato il gesto, che secondo malinterpretato, che secondo lui era semplicemente un gesto di rimangiarsi quello che stavano dicendo, però sappiamo che sono due gesti diversi. Prima ha detto rimangiarsi, poi dopo ha detto io stavo, cioè, ha 8 versioni diverse, però pare, ho sentito che ha detto abbiamo un video che vi mostreremo, ma non adesso, lo mostreremo martedì. Vabbè. E quindi penso che andrà avanti tutta la settimana prossima. Comunque anche la taverna che urlava azzocci all'indirizzo di Berdiniani non è che fosse proprio il massimo, diciamo, cioè, c'è il momento che urla azzocci, poi non è che vuoi dire, però adesso voi mi avete fatto un gesto che un pochino non mi sembra principesco. Secondo me sì, hanno trasceso un po' anche loro. Va bene, altro tema, Carlo, qua siamo in casa, giochiamo in casa. Sì signori. Allora, intanto le affermazioni di questo Don Gino farneticanti sulla pedofilia e sull'omosessualità, meglio quasi la pedofilia, ha detto, ma no, no, non ha detto meglio, ha detto la pedofilia posso capirla, l'omosessualità non lo so. Non lo so. Che onestamente mi sembra un po' troppo. Ma il fatto che non possa capirla, posso capirlo. Però questo non. No, è che lui comprende, nel senso. Non comprende, ma lui in realtà voleva dire un'altra cosa, voleva dire che non lo giustifica. Sentiamolo. Fra l'altro, Don Gino, che è stato rimosso subito, naturalmente, dopo questa intervista all'Aria che tira sulla 7, è stato mandato. Ha deciso lui di andare all'estero per un periodo. Non lo so, sentiamolo intanto le sue così, frasi, purtroppo ci sono. Chi vive in questa situazione, pedofilia o omosessualità, che penso che dentro provi una certa sofferenza, perché si vede un po' diverso dagli altri, cerca in tutti i modi di venirne fuori, perché è umano questo. Della pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so. Perché io sono fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma, e lo capisco questo. Beh, è inutile dire che sono frasi gravissime, farneticanti. Sì, ma quella più grave in realtà è quella dopo, nel senso che io non ho capito quando dice, cioè nel senso di dare la colpa ai bambini e dire i bambini cercano affetto perché non lo trovano in casa. Ma di che affetto stiamo parlando? Perché nemmeno in casa, nel senso che se si parla di pedofilia non stiamo parlando dell'affetto che un bambino deve cercare in casa. Oppure non so che tipo di famiglia abbia in mente il Don. Sentiamo Paolo Mieli, in uno dei tanti talk show della settimana, riesce, diciamo così, a tratteggiare con giuste parole, senza, diciamo, trascendere questa affermazione di Don Gino. Contro Don Gino si può dire qualsiasi cosa, poveretto, ma si tratta di poveretti di culture contadine che non sono, dobbiamo metterla così, non sono al passo con la chiesa di Bergoglio. Che vuol dire lobby gay? Lobby gay vuol dire che ci sono una marea di gay, e questo è noto nella chiesa, ma veramente molti più di quelli che immaginiamo. E che l'attività lobbistica non è legata a loro essere gay, ma alle coperture, alle ipocrisie. Per esempio, Ciaramska, ma quanti, 100, 200 persone, era un pezzo grosso della chiesa, sapevano che non che era gay, ma che conviveva violando un principio che sarebbe stato lo stesso se fosse stato con una donna. Vabbè, lasciamoci, proviamo a lasciarci alle spalle questa immensa tristezza per queste frasi di Don Gino, vediamola così con Paolo Mieli, tracce di una cultura contadina. Sì, in realtà secondo me non regge moltissimo la difesa, nel senso poveri che comunque, contadini, poi, che comunque contadini. Don Gino, nel senso che Mieli cerca di giustificarlo dicendo non ha esattamente compreso che cosa significa pedofilia, però in realtà lo stesso Don Gino parla poi di peccato, quindi non è che lui pensa che pedofilia si intendi appunto l'amicizia nei confronti dei bambini. Comunque questo va detto, Don Gino ha fatto delle affermazioni assurde, e questo non è che squalifichi tutto il pensiero della Chiesa. E adesso diamo il buongiorno a Cristina Cappellini, assessore alla cultura della Regione Lombardia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Entriamo nel tema, diciamo, che stiamo per lanciare, che è questo: martedì ci sarà il voto, martedì dovrebbe approdare in aula il testo, sul nuovo testo Cirinnà sulle unioni civili. Ci sono un testo più light, più leggero, lo ha definito il Partito Democratico, non ci sono più riferimenti al matrimonio, anche sulle adozioni cambia la formulazione, si potrà adottare solo il compagno, potrà adottare il figlio biologico del proprio compagno, in qualora ci fosse, non il figlio adottivo. Questa è una delle modifiche. Sentiamo le critiche di Lupi e poi andiamo sul traffico. Velocemente, Lupi. Se il PD pensa di fare una battaglia sulle unioni civili, magari per placare quella minoranza del Partito Democratico che ha dovuto votare per il cambiamento e le riforme costituzionali, fa un errore gravissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scrive da una carta da lettera bianca, mi dice che sono uno stronzo di prima categoria. Io le rispondo, la colpa non è mia, è colpa di Beatrice che a sua volta mi scrive da una carta da lettera gialla. Di nuovo il buongiorno all'assessore Cappellini, Cristina Cappellini, alla cultura della Regione Lombardia, perché la notizia è questa: anche voi, diciamo, prendete di mira questa teoria gender che secondo le associazioni di omosessuali non esistono, secondo anche il ministro dell'istruzione Giannini ha detto stiano tranquilli quelli che lo temono, non c'è nelle politiche educative in Italia qualcosa del genere, però voi dite al bando i libri che parlano del gender nelle scuole. Che tipo di mozione avete approvato in Consiglio Regionale? Dunque, martedì scorso è stata approvata, tra l'altro, da tutti i gruppi di maggioranza, una mozione presentata dal capogruppo in Consiglio regionale della Lega Nord, Massimiliano Romeo, che ha chiesto alla Giunta di monitorare gli insegnamenti in alcuni istituti scolastici ai fini di evitare che si ripropongano delle situazioni spiacevoli segnalate da molti genitori in diverse scuole d'Italia e anche da taluni insegnanti, che mirano insomma ad introdurre questa sorta di ideologia, noi la chiamiamo ma gender, ma che non vuol dire gender intesa come studi di genere, che è una corrente di studi che risale agli anni 70, ma questa deriva che si è verificata negli ultimi anni, in particolare negli ultimi due anni, e che vede circolare libri che insegnano a bambini anche nella più tenera età che insomma esistono diverse famiglie, che avere due mamme o due papà è uguale, quindi l'equiparazione di un modello di famiglia diverso a quello a cui siamo stati tutti abituati, in cui siamo stati cresciuti. Beh, questo è corretto, e soprattutto però alcune diciamo prassi o alcuni insegnamenti, alcune lezioni che sconfinano in un'educazione sessuale che, non essendo ancora regolamentata in Italia, nostro giudizio dovrebbe restare in capo alle famiglie, anche perché non ci sono tutte quelle tutele. Però che ci siano mi scusi che ci siano delle famiglie però con due mamme o due papà, io spero che i figli gli venga insegnato, giusto? Perché è un dato di fatto. Il problema è prendere coscienza di una certa realtà, l'altro aspetto è inculcare nei bambini alcuni concetti che a pochi anni di età non dovrebbero essere, appartenere a una coscienza infantile, che diciamo che un bambino di 4, 5 ma anche di 2 o 3 anni dovrebbe giocare, imparare come tutti abbiamo imparato le lezioni basilari a scuola, ma trattare certi temi bisogna stare molto attenti. Però scusa, dovrebbero essere gli insegnanti a decidere di che cosa si parla a scuola, non i consiglieri regionali? Beh, noi abbiamo riportato un malessere segnalato da molti genitori e da alcune scuole in diverse città, in diversi contesti, quindi è ovvio che il politico non interviene sulla, diciamo, sulle lezioni scolastiche, però è dovere anche di un amministratore, di un politico, riportare un certo malessere che si sta diffondendo nella società, proprio perché ci sembra singolare che in alcune scuole si siano sperimentati dei giochi che comunque creano un certo disorientamento nell'educazione sessuale dei bambini. Ma mi scusi, ma lei pensa che esiste questa teoria del gender? Perché diciamo che sono insegnamenti poco ortodossi, perché nel momento in cui... Ma esiste la teoria del gender, secondo lei? Esiste nel momento in cui si insegnano alcune lezioni o si impartiscono alcune lezioni in scuole dell'infanzia, che dietro la parvenza legittima di lezioni come lotta all'antidiscriminazione, al bullismo, per carità, tutti principi su cui non possiamo che essere d'accordo, poi veniamo a scoprire che queste lezioni diventano altro. Quindi, però mi scusi, no, perché siccome sono molto curioso che si travestono da femmine e altre, diciamo, lezioni che adesso non sto facendo. Però non è che travestirsi da Zorro, diciamo, possa essere più educativo, nel senso, o travestirsi da Cappuccetto Rosso e poi andare nel bosco e farsi mangiare da un lupo. Quindi questa idea che se uno si traveste da donna allora è finito tutto e stiamo diventando tutti omosessuali è una follia, alla quale tra l'altro i bambini manco ci pensano, proprio non ci pensano. Ero curioso sulla questione della teoria del gender, perché come sappiamo tutti la teoria del gender non esiste, tutti lo dicono, è semplicemente uno spauracchio che sta messo, quindi volevo capire se anche lei arrivava al punto di dire è risaputo, nel senso che è una cosa che è stata inventata, tipo che dice la masturbazione dei bambini da 0 ai 4 anni, che è una fregnaccia che non si è mai vista, e non capisco perché mai qualcuno dovrebbe essere interessato ad insegnare questa cosa. Quindi è per questo che mi chiedevo se il nostro assessore alla Lombardia credesse che esiste la teoria del gender. Assolutamente sì, e questi argomenti tra l'altro verranno approfonditi in un convegno il 17 di ottobre, quindi sabato prossimo, in Regione Lombardia. Faremo tutto un pomeriggio con... Che è la replica, mi scusi, è la replica di quello di gennaio dove era presente il sacerdote accusato di pedofilia, giusto? Per ricordarlo. Il sacerdote sicuramente non è stato invitato da Regione Lombardia, no, era quello che era in prima fila. Era aperta a tutti e quindi sì. Con ingresso libero questi dobbiamo chiudere, però possono accadere. Certo. Sarà va bene. A seguito di quella manifestazione, di quel convegno, dove avremo esperti di demografia, di politiche sociali. Va bene, devo chiudere, assessore, mi scusi, devo chiudere perché ho il giornale radio. Grazie per essere stata con noi, Cristina Cappellini. Buona domenica. Buona domenica. Ci fermiamo qua. Solo l'indizio sul personaggio che cerchiamo di questa settimana ha ottenuto una grande vittoria. 800 24 00 24. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica a tutti. 800 24 00 24, vi aspettiamo per le vostre buone notizie, per commentare quello che avete sentito. Siamo partiti questa mattina da un'intervista con l'assessore alla cultura della regione Lombardia, Cappellini, che annuncia una mozione, anzi è già stata votata una mozione per mettere diciamo così in discussione, al bando, così come avvenne anche nella città di Venezia, i libri che secondo questa interpretazione parlano della teoria del gender nelle scuole. Vabbè, insomma, sappiamo che nelle scuole in realtà sono gli insegnanti che decidono quello che succede, o il ministero a decidere qual è l'adozione dei libri di testi. Dice l'assessore lombardo che molti genitori sono lamentati di che cosa? Di queste iniziative che mirano a confondere le idee ai bambini sulla sessualità, diciamo così, in età come 4-5 anni, che non sarebbero, diciamo, idonee. Ma la notizia soprattutto è che il nostro assessore crede fermamente che la teoria del gender esista. Vabbè, quando tutti sappiamo che non esiste. E tra l'altro fu in una intervista proprio a Radio 24 che il ministro dell'istruzione Giannini disse chiaramente: questa cosa del gender non entra in nessun modo nelle politiche educative portate avanti dal ministero dell'istruzione in Italia. Lo disse il ministro. Sì, poi fu anche importante, in realtà disse due cose. Prima disse questa cosa, poi venne ripresa dicendo: ma in questo modo comunque sta dicendo che la teoria del gender non rientra nelle nostre scuole. Ma la vera cosa è che poi lei stessa disse la teoria del gender non esiste, perché è un po' come dire le scie chimiche o parlare di UFO, non è interessante. Tutto questo nella settimana nella quale dovrebbe arrivare in Parlamento un nuovo testo modificato sulle unioni civili. Più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, è il nostro personalissimo motto. Andiamo con gli ascoltatori, cerchiamo anche un personaggio della settimana, tra l'altro, per regalare i biglietti della mostra da Raffaello a Scile, i capolavori del Museo delle Belle Arti di Budapest a Palazzo Reale, dal 17 settembre al 31 gennaio. Due biglietti più un catalogo a chi risponde alla domanda. Ci chiama, non so come si pronunci, Vaifra o Vaifra da Fermo? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Secondo me è il vino italiano che è diventato leader e ha superato il vino francese o i vini francesi. Perché noi abbiamo detto come primo indizio che il personaggio ha avuto una grande vittoria, ha realizzato una grande impresa, il vino italiano. Beh, in effetti questa è una notizia della settimana. È ottima, tanto che noi impresa. Anche ieri abbiamo sentito ce ne abbiamo parlato di questo sorpasso, ma non era la risposta esatta. Però grazie mille allora di aver chiamato. Approfitto perché ho telefonato un'altra volta e sì, mi avete detto che mi avreste trovato il significato del mio nome. Veramente? Sì. Io ho perso completamente la memoria, io, perché non ricordo assolutamente. Era prima dell'estate. Era Radio 24? Sì. Era Si può fare? Sì. Ero io? No. Sì. Era lei? Veramente Gabardini me l'ha detto. Ecco, mi prendo molto volentieri la colpa, non ho studiato. No, ma anche perché io oramai ho 69 anni e siccome mio padre diceva che i nostri nomi, Vaifra e Gabor, venivano da un romanzo. Sì. Nonostante i tentativi. Non è riuscita a capire qual era questo romanzo di cui parlava suo padre. Qual era il romanzo da cui sono stati tratti questi due personaggi. Infatti, io mi chiamo Vaifra, mio fratello si chiama Gabor. Vabbè, ma adesso ci lavoriamo sopra. Detta grazie. Così, Vaifra e Gabor, un romanzo, ci lavoriamo sopra. Le chiedo scusa, grazie. Veramente. Più o meno degli anni 30. In romeno degli anni 30? No, più o meno negli anni 30. Chiedo scusa. Anni 30. Perfetto, ci chiami prima di compiere i 70 anni. Vabbè, Grazie a lei. Buongiorno, buona siamo domenica. Siamo disponibili all'800 24 00 24 anche per il servizio nomi. Nomi, esatto. Cosa significa il vostro nome? Chiedetelo a Gabardini. Mimma da Milano, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire che per me è inaccettabile che si possa approvare una mozione in cui Si dice che i bambini non devono essere abituati ad accettare la differenza di genere, quindi le famiglie, cioè che un bambino possa avere due genitori dello stesso sesso, ecco, non è una cosa che per me è accettabile, perché i bambini devono fin da piccoli abituarsi alla differenza e rispettare. Tra l'altro i bambini, io ho una figlia di 4 anni, le differenze le notano, le colgono in maniera ingenua, naturale, esatto, senza pregiudizi, le colgono naturalmente, esatto, e basta semplicemente parlarne spiegando. Questo poi è materia di insegnamento, io mi fido molto degli, esatto, insegnanti e della loro esperienza. Sono molto d'accordo, soprattutto per la questione che la popolazione italiana è molto più avanti dei nostri politici e questa cosa viene confermata continuamente. Non sempre. Però sì, ieri ero a Bologna alla fiera del matrimonio, dove c'era anche una parte Gay Bride Expo, quindi sul matrimonio egualitario, e la cosa incredibile, la notizia di questa fiera, è che non c'è niente di particolare da dire, perché i matrimoni sono identici uno con gli altri, non è che il matrimonio fa persone dello stesso sesso, allora sono tutti vestiti di piume, non c'è nessuna differenza, e tutti gli espositori, che sono espositori di vestiti, di confetti, dicono: noi ci rendiamo disponibili, perché è semplicemente un fatto di capire che è un'altra esigenza nel momento che entra un cliente che invece che sposarsi, un ragazzo che invece che sposarsi con una ragazza si sposa con un ragazzo. Ed è stato bellissimo vedere come non c'era assolutamente nessun problema e nessuna differenza, come lei sta confermando con questa telefonata, quindi siamo molto contenti. Grazie Mima, buona giornata. Tra poco riprendiamo anche con il riepilogo delle notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie e di buone pratiche. Ripeto l'indizio, anzi aggiungiamo un indizio, va, aggiungiamo un indizio sul personaggio della settimana che ha realizzato una grande impresa. E diciamo che la vittoria del nostro personaggio riguarda l'Europa. Quindi siamo in un contesto d'Europa, di una grande impresa. 800 24 00 24. Facciamo un altro ascoltatore al volo. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, ecco, dunque no, io volevo intervenire su quello che avete detto questa mattina sui senatori, su gesti osceni, sì, e diciamo l'intervento di quel prete lì, Don Gino, sul problema della pedofilia. Dunque, io ho la netta impressione, ho circa 62 anni, ho la netta impressione che in una maniera rapidissima noi si stia andando verso un abisso etico, un abisso, cioè non veramente, cioè io... Beh, ma non prenda le parole di Don Gino come sì, esempio, però, di un futuro, sì, io le prenderei come un esempio di un passato. Sono d'accordo con Paolo Mieli, anche se i contadini non c'entrano nulla, è un qualche cosa che... No, io non sono d'accordo, sì, sul fatto del passato. Questa gente che è presente è sempre di più ed è stata sdoganata da 20 anni di berlusconismo, cioè di televisione volgare, allucinante, di educazione veramente alla volgarità. Beh, però io non credo che, cioè adesso io la lascio parlare, però non vedo il legame tra la TV commerciale, tra Berlusconi non e la pedofilia. Un legame, beh, guardi, cioè era veramente l'esaltazione della volgarità, cioè c'era di tutto e di più, e ancora adesso anche la RAI. Sì, la volgarità può darsi, ma la pedofilia credo che non c'entri nulla con la volgarità. No, cioè, no, sono no, mondi diversi, guardi, una cosa ancora, molto più grave. Ancora non sono arrivati a questo. Fortunatamente la pedofilia è un problema che riguarda la nostra società, sì, e riguarda in maniera... Semmai riguarda l'ipocrisia dentro la Chiesa, questo sì. Certo, però l'ammissione, cioè l'esternazione di questo prete, cioè il fatto di dire impunemente davanti ai media che praticamente... Ma no, guardi, anche lei vede impunemente davanti ai media, è un'intervista rubata, non è impunemente tutto, davanti ai media. Come no? È un'intervista, cioè, sì, cioè lui ha esternalizzato un suo pensiero molto particolare che evidentemente gli apparteneva e appartiene a buona parte forse della Chiesa, perché evidentemente se esistono questi fenomeni all'interno della Chiesa, l'ha messa fuori tranquillamente, l'ha detta, cioè con la scusa di rendere pubblico, cioè veramente, se, non lo so, io... sono abbastanza preoccupato. Poi... Va bene, grazie, buona giornata, dobbiamo chiudere, grazie, dobbiamo fermarci, c'è il traffico. Il personaggio della settimana ha realizzato una grande impresa che riguarda l'Europa. 800 24 00 24, dateci dentro. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Vabbè, come fai a non mettere nel riepilogo della settimana le dimissioni di Marino? Ci tocca, anche se... Non è nemmeno il riepilogo, è proprio tutta la settimana. Direi che non abbiamo parlato d'altro. Ci tocca assolutamente, facciamo così, facciamola veloce. Sentiamo Marino 1 quando annuncia le dimissioni, ma ancora, diciamo, lotta in qualche modo e sottotraccia fa capire che non tutto è perduto dal suo punto di vista. Ho compiuto la mia scelta, presento le mie dimissioni. Sapendo che queste possono essere per legge ritirate entro 20 giorni. Poi c'è un Marino 2 dopo poche ore, a parte che le dimissioni ancora non sono state presentate, bisognerà aspettare lunedì. Qualcuno scrive ieri Repubblica che è pronta una lista civica, ci sono dei cittadini che lo vogliono sostenere, c'è una petizione online, resisti Marino, resisti, c'è un hashtag su Twitter, però poi Marino fa capire che questo scenario sta un po' tramontando. Sentiamo invece, come dire, il suo addio con tanto di adesso attenzione perché torna la mafia, parole hanno fatto incazzare anche il PD romano, il commissario Orfini ha detto gravissimo che Marino dica vado via io e arriva la mafia, e in effetti certo. è un discorso un po'. Comunque il PD romano si incazza molto facilmente. Penso, ecco. Anche per altre cose. Non nascondo di nutrire un serio timore che immediatamente tornino a governare le logiche del passato e del meccanismo corruttivo mafioso che purtroppo ha toccato anche parti del Partito Democratico. E che pensa di me? E qua il senatore Vito Crimi, ve lo ricordate, il primo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, all'inizio di questa legislatura dice una cosa giustissima, dice ma come Marino si è dimesso per gli scontrini, cioè per una cavolata, 1.500-2.000 euro su 150.000 euro di spese di rappresentanza, è comunque una roba che è una nullità rispetto ai miliardi di debito di Roma, a quali forse Marino avrà pure partecipato al degrado di Roma, ma si doveva dimettere per quello, per quelle questioni di cui i 5 Stelle parlano pure da tempo. Esatto, è bello detto dai 5 Stelle che in realtà facendo loro una politica dell'onestà, giustamente loro sono sostengono che basta uno scontrino per andare via, invece questa volta dice non è così. È stata abbastanza vergognosa quella su Marino. Ne approfittiamo anche per comunicare, anche se penso lo sapete tutti, che il sindaco Marino si è dimesso, dimissioni che non sono arrivate ai tempi di Mafia Capitale, ma arrivano adesso per uno scontrino. Pensate un po' che tristezza di paese in cui viviamo. La disfatta di Marino è la disfatta di Renzi, che l'ha difeso alla faccia di tutto e di tutti, soprattutto dei cittadini romani, quindi non solo Roma, perché i problemi non sono solo a Roma, penso a Milano, penso a Bologna, penso a Torino. È la volta della gente normale, quindi spero che la figura di fango colossale di Marino del PD avvicini tanta gente normale che abbia voglia di costruire il futuro delle sue comunità. Votare domani mattina perché in Italia la democrazia è già stata sospesa da troppo tempo. Vado, questa volta deciso che vado, ma perché non me l'hai detto tu? Buongiorno a Pier Giorgio Di Freddi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Stavo per dire buon Giorgio. Vabbè, ci sta. Sì, va bene, certo, in questo caso. Senta, Di Freddi, noi l'abbiamo chiamata e convocata per commentare con lei in realtà anche le dimissioni di Marino, perché lei è un sostenitore di Marino della prima ora. Però poi annuncio subito l'altra notizia, che è un non si può fare di questa settimana, cioè il calo delle vaccinazioni in Italia, per cui stanno tornando delle malattie che sembravano debellate, un comportamento non razionale, e lo chiediamo a lei che è un matematico, dei cittadini italiani che preoccupa. Però prima di arrivare a questo partiamo da Marino, lei l'ha sostenuto sì. Dall'inizio, adesso le chiedo, ha fatto bene a dimettersi, era insostenibile la situazione? Ma la mia opinione è che abbia fatto male a candidarsi in realtà, e poi quindi alla fine no, era quasi scontato che si sarebbe dimesso. Marino ha cercato di andare controcorrente e di fare una politica differente, no? È caduto naturalmente scivolando su una buccia di banana, però ha avuto contro fin dagli inizi, tra l'altro, il Partito Democratico. Ricordiamoci che Marino non era affatto il candidato del partito, ha fatto le primarie. C'era Gentiloni, certo. Infatti, no? Le ha vinte appunto contro il partito non l'ha mai trangugiato, tra l'altro poi si è visto in seguito che tipo di partito fosse il PD a Roma, no? Ormai è stato commissariato, no? Però non è che si eradica una situazione di questo genere dall'oggi al domani, no? E non credo che abbia tutti i torti a dire che effettivamente è un po' una vittoria del passato. Io stesso anche sul mio blog l'avevo intitolato, credo proprio così, no? Gli affaristi si riprendono il Campidoglio. Ma chi sono questi affaristi? Perché in effetti Marino ha toccato alcune situazioni, insomma, ha fatto, adesso ripercorriamo, si è fatto tanti nemici, ha fatto incavolare i ristoratori quando ha fatto la battaglia al tavolino selvaggio a Piazza Navona, i taxisti per esempio quando ha chiuso i fori, no? Esatto, i commercianti sulla pedonalizzazione, anche quando ha chiuso la discarica, in realtà il proprietario della discarica ha chiuso la giurata, la famosa discarica di Malagrotta. Sono aumentate le multe a Roma da quando c'è il nuovo capo dei vigili urbani, Clemente, Raffaello, e quindi sono questi i poteri forti o c'è qualcosa di più? No, perché Marino dice la mafia. Credo che siano i poteri deboli quelli sono quelli dei cittadini che effettivamente poi cercano di salvaguardare i propri piccoli benefici o i propri i diritti acquisiti, diciamo così, no? Ma in realtà Marino credo che abbia pestato adesso non so che espressione usare, no? Abbiamo capito quando si pestano, quella più grossa di tutte, cioè è andato a toccare gli interessi del Vaticano. Il vero problema il qui Vaticano. È il problema del Giubileo, no? Certo. È stato, tra l'altro credo che sia una situazione assolutamente anomala nel nostro paese, il fatto nel che, mondo forse, ma perché? Quindi che sia stato in realtà sfiduciato da un Papa Presidente del Consiglio, cioè in realtà il momento cruciale, no, della caduta di Marino è stato quell'intervista del Papa in aereo, no? Tanto il Papa che ha sempre una buona parola per tutti, invece in quel caso lì sì, assolutamente ma poi comunque no. Ha fatto vedere di essere proprio seccato. Ma perché Marino darebbe fastidio di Freddi al Vaticano? Perché il business del Giubileo, intendiamoci, il Giubileo è sempre stato questo, da quando Bonifacio VIII nel 1300 l'ha istituito, no? Era semplicemente il traffico delle intelligenze, no? Non a caso poi tra l'altro Bonifacio VIII aveva il posto già riservato all'inferno di Dante, no? Benché fosse ancora vivo nel 1300 quando Dante ha ambientato la sua Divina Commedia, no? Mi sembra una spiegazione perfetta. È stato tra l'altro il motivo per cui poi c'è stato lo scisma protestante, no? Cioè lo scandalo di questa compravendita delle indulgenze. Il Giubileo è il centro di questa compravendita, infatti si parla già da molti mesi, no? Che i pellegrini verranno, non avranno l'indulgenza plenaria, eccetera eccetera, no? E ovviamente il Giubileo muove miliardi di investimenti da parte dello Stato, porta anche ovviamente, no, dei miliardi nelle casse di qualcuno, ma spesso questi qualcuno sono i ristoratori, gli albergatori cattolici per l'appunto, no? Perché questi pellegrini in genere poi non finiscono nelle strutture statali, no? Diciamo così, no? quelle classiche, no? Vanno a finire, no? In quelle del Vaticano, quella rete, in tutta quella rete che c'è appunto, no? Dove eppure però Papa Francesco, bisogna dirlo, ha detto se queste strutture della Chiesa in realtà ospitano e fanno il lavoro degli alberghi, devono pagare quantomeno l'IMU e le tasse come tutti gli altri. Se posso dire, Papa Francesco è molto simile, no, è molto simile a Renzi, parlano molto, no? Ma poi anche per esempio quando è arrivato agli inizi del suo pontificato, sì, ha fatto quella famosa dichiarazione: San Pietro non aveva una banca. E cosa vuol dire? Adesso la banca lui però continua ad averla, cioè sappiamo che San Pietro non l'aveva, però il Papa ce l'ha. Una rivoluzione di facciata, secondo Di Freddi, no, mi sembra, no, di capire. Sono cose che secondo me attirano molti media, no? Sì. E fanno parlare, no? Quindi fanno una buona stampa, come si dice, no? Ma poi nella pratica, no? Cioè, per esempio appunto lo Iore è rimasto com'era, si è leggermente adeguato alle norme europee, ci mancava ancora, no? Che fosse la banca che sappiamo, quella di Sindone e di Calvi, no? Però infatti lei ci ricorda spesso nei suoi post che comunque il Papa è un gesuita, che non va dimenticato. No, questo cosa vuol dire? Scusate, io non me ne intendo. Cosa vuol dire che è un gesuita? È un gesuita, no? che ha preso il nome di un francescano e che si veste come un domenicano. Perché, sì, No, mi spiega anche a me cosa vuol dire che è un gesuita o di Freddi, io che non ne capisco niente di gesuiti. Si parla di addirittura di verità gesuitica, no? Che è dire il falso dicendo la verità, no? Okay. Cioè, tentativo, no, di appunto, che è quello che dicevo prima, no? Cioè, appunto, dire frasi come quella sullo Iorno, far capire, no, una cosa, capire che la gente, vabbè, predicare bene e razzolare male, dai. E poi la banca. E poi dire, va bene, ma io solo detto che San Pietro non ce l'aveva, no? Certo, no, non va, diciamo, secondo me non va nemmeno dimenticato che comunque Marino è anche il sindaco che ha trascritto i matrimoni gay contratti all'estero, che certo, non, il problema è questo, non è che, piaciuto, certo. E avere un sindaco come quello durante il giubileo, abbiamo la sensazione che il Papa non avrebbe gradito. Il problema è che è molto difficile, credo, a Roma avere un sindaco che non sia cattolico, e in Italia avere un presidente del consiglio che non sia anche cattolico. Se, anche se Marino sempre... è cattolico, anche se Marino, appunto, dice di Marino essere cattolico. Però a proposito di Marino, di essere quello simoro che diceva anche, sì, che Prodi, no? Cioè cattolico adulto. Però, adulto. Le cose sono un po' contraddizioni in termini. A Baba Bergoglio piacciono, certo, i cattolici bambini. Senta, Odi Freddi, piacciono i cattolici, punto. Adesso però c'è una petizione che ha, sì, raggiunto non so quante firme, c'è Marino Resisti su Facebook che ha quasi 10.000 like, non sono moltissimi, però lei ci crede a questo scenario? Un Marino che resiste, no, con una lista sua? No, non credo. Credo che sia possibile, magari più alla lunga, che Marino poi faccia una lista civica quando ci saranno le elezioni e in quel modo faccia poi perdere il PD, togliendogli dei voti. Una vendetta. Ma può fare anche una vendetta, anche una giustizia, diciamo. Un risarcimento. Ma può fare del male al PD il sindaco Marino, certo, quando dice che un po' sembrava anche vagamente minaccioso, dicendo io mi tengo questi 20 giorni e potrei parlare in qualche modo, dire forse delle cose che fino adesso non ha potuto dire. Sta per uscire il suo libro. Beh, sono sicuro effettivamente che il sindaco sappia, no? Anche perché in fondo chi sta dentro il PD sa benissimo, no? Che anche lì c'è una facciata, no? E c'è però tutto un aspetto affaristico, no? Guardiamo per esempio l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia del giubileo, che è l'Expo. Anche quello, no, in fondo è una grande attrazione, no, che poi serve ovviamente, no, a far girare soldi pubblici, no, che poi producono dei guadagni privati, no? È sempre un po' la stessa storia, no? E effettivamente quando ci sono gli affari, ovviamente ci sono sempre dei lati oscuri, diciamo così. No? Senta, certo, sarebbe interessante, sì, che finalmente qualcuno, no, chiese come sanzio, diciamo, casco io. Non mi perda la linea proprio adesso, perché so che in uno spostamento di Freddi la sentiamo ancora, spero, perché volevo farle commentare invece leggermente il contatto. Ecco, eccolo qua. Allora, la notizia, il non si può fare di questa settimana, le statistiche di sanità dicono che sono in calo, preoccupante, le vaccinazioni da parte degli italiani, genitori di bambini che non si vaccinano, su alcune malattie c'è un calo, per esempio fino all'86%, no, un calo, scusate, si vaccinano l'86% anziché il 100% delle persone sulla parotite, morbillo, rosolia, ma anche la pertosse. Ci sono già dei decessi avvenuti per alcune di queste malattie si tra i bambini. Si sta scendendo sotto la soglia di rischio. È un fatto gravissimo. Come spiega, Odi Freddi, matematico, un comportamento così egoistico, perché le persone non vogliono assumersi rischi labili, che però ci sono alcune percentuali di minime di rischio sulla vaccinazione, che però poi fanno ritornare queste malattie. Quindi un comportamento irrazionale. Ma più che altro è un abbassamento della guardia. Naturalmente i vaccini hanno in questi decenni debellato molte delle malattie che una volta portavano appunto, no, a quantità enormi di decessi infantili, e in realtà forse ci si è tranquillizzati troppo. Ora è vero che se queste malattie fossero state debellate nel mondo intero avrebbe un senso, no, dire vabbè, ormai non ci sono più, no? Per esempio noi da ragazzi, no, facevamo alcune vaccinazioni che oggi non vengono più fatte, no? Quelle famose sul braccio, no, così, no, contro la poliomielite, no? Quelle sono state effettivamente debellate, ma queste altre malattie che voi avete citato, no, ci sono ancora, no, nel resto del mondo. Il nostro è un mondo globalizzato in cui ormai si viaggia moltissimo, no? E quindi le persone che arrivano da zone contaminate, diciamo così, non sono portatori spesso di queste malattie. Allora abbassare la guardia è sciocco, certo, naturalmente, no? Perché significa semplicemente esporsi poi, o esporre i poveri bambini che non vengono vaccinati, ai rischi di prendere la malattia. E quindi bisogna, cioè, è una sciocchezza proprio, veramente. C'è d'altra parte l'altro aspetto, no? Che è l'irrazionalità, diciamo così, nei confronti anche della medicina tradizionale del nostro mondo. In parte anche questo è comprensibile, se non giustificabile, il fatto che purtroppo le case farmaceutiche, no, quella che si chiama in America la Big Pharma, no, sì, sono effettivamente, sì, no, anche queste, no, una grossa industria, no, quindi tendono a propagandare l'uso o l'abuso anche di farmaci. Quindi e hanno fatto anche tanti disastri a volte, certo, insomma, certo, qualche volta hanno anche sbagliato. Certo. Però scusi, di Freddy, gente cerca magari di dire, no, io non, sì, voglio prendere medicina tradizionale, mi affido alle medicine alternative, no, e così via, no, new age, eccetera, no? E questo atteggiamento nei confronti dei vaccini o contro i vaccini è un po' parte di questo trend antiscientifico. Ecco, questo trend antiscientifico si alimenta anche sul web per il fatto che la gente legge giustamente di tutto quello che c'è, però dando l'uguale peso a un articolo di riviste scientifiche o a cose scritte da chissà chi, da santoni, da gente che non sa quello che dice. Questo succede. Purtroppo la faccia diciamo oscura del web, no? Che ha delle potenzialità enormi, no? E grandissime e positive, però dà anche voce, no? Appunto a gente che non ha nessuna competenza e che poi viene messa appunto sullo stesso livello, no? Magari dei premi Nobel, no? Così via, che tra l'altro i premi Nobel che parlano di queste cose, che hanno preso il loro premio per queste cose, ce ne sono tanti, no? E per esempio, no, quello di quest'anno, no, della medicina, no, in parte, no, è andata anche a studi di questo genere, no? Studi sulla malaria, no? E a studi per esempio sulle medicine alternative cinesi, no? Che effettivamente poi hanno isolato, no, dei principi attivi in una particolare pianta. Quindi ci sono anche, no, degli aspetti positivi, no, in queste medicine alternative, però un conto è quando appunto, no, arrivano al premio Nobel, no, e effettivamente dal punto di vista scientifico queste cose vengono giustificate e corroborate, e l'altro invece è un po' come l'affidarsi ai santoni, ai guaritori, no? Sì, però altri tipi di medicine in realtà, come giustamente sta dicendo lei, che vengono spesso denigrati, poi in realtà possono essere invece, sì, anche non ottime. Vaccinarsi, cioè, però tipo, non c'entra il mio osteopata mi dice che certi vaccini effettivamente non fanno bene, cioè, mi sembra di capire che in realtà esistono dei vaccini obbligatori e poi i cosiddetti vaccini raccomandati, che in realtà sono messi quasi sempre insieme. Uno, esistono persone che dicono: io quello raccomandato non voglio farlo, mio figlio. Se invece lo Stato pensa che questo vaccino sia molto importante, lo metta tra gli obbligatori. Ma certo, certo, ma infatti bisogna essere anche razionali in queste cose, no? Cioè, e anche con l'uso in generale delle medicine, non soltanto dei vaccini, no? Certo. C'è un po' la tendenza anche nella nostra società dall'altra parte, no, a esagerare, a abusare di qualunque sintomo, no, di bubù, si prendono appunto farmaci e diventa. Io sono uno di quelli. Ecco, alla fine, no? Sì, sì, mi prendi le medicine e poi ti affidi all'osteopata. Sì, per io faccio vaccini. Tutto, io sei faccio tutto, dall'osteopata all'antibiotico, di quello che andrebbe possibilmente fatto nella stessa giornata. Grazie di Freddy, dobbiamo grazie salutarci mille qua. Grazie, buon viaggio, grazie, buona giornata. Arrivederci. Buona domenica. Arrivederci. E comunque vaccinatevi, fate vaccinare i vostri figli, non si corrono rischi di nessun tipo, lo ha fatto anche la ministra Lorenzin con la sua bambina, credo che abbia appena nata. Sì, però non è un generico vaccinatevi, secondo me. No, vaccinatevi su quei vaccini lì dove ci sono malattie mortali che sono in circolazione. D'accordo. Quindi informatevi con i medici di base che vi dicono quello che dovete fare. Non ascoltate i santoni di turno che non c'entrano. L'osteopatia non è una 800 24. Sì, ma non sono medici. 800 24 00 24. No, l'osteopata non è un medico. L'osteopata il mio sì, non è un anche medico. Sì, allora è un'altra cosa, però è un medico. Torniamo tra un attimo. No, l'indizio l'abbiamo già e comunque dato. Comunque mi ha salvato la vita il mio osteopata, volevo dire. Abbiamo gli ascoltatori sul personaggio della settimana, tra poco. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. E avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua, cari ascoltatori, insieme. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buona domenica. Francesca da Treviso, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Cosa voleva intervenire, Francesca? Allora, io ho pensato che il personaggio della settimana fosse Svetlana Alexievich. Il premio Nobel. Premio Nobel. Per la letteratura per di quest'anno. Per la letteratura, sì. Stavo per dire, chi? Ma come? Ragazzi, io Svetlana Alexievich non la conoscevo. Voi la conoscevate tutti prima del premio Nobel? No, prima, concordo con te, perlomeno io non ero... No, ha pubblicato per Bompiani e per EO, avevano pubblicato Francesca, in Italia forse dei libri. Come avrai capito, Non era lei, non era lei. Però non è stata una bella risposta, perché in effetti sì, ci stava. Anche perché questo gioco è fatto sicuramente per darvi un premio, ma anche per parlare delle notizie di cui anche voi volete parlare. Quindi per noi è molto bello che voi nominiate delle personaggi. C'è stato il Nobel per la pace assegnato al quartetto di mediatori tunisini. Che ha fatto un po' sorprendere, perché non era una persona, era molto difficile. Però era una bella notizia. Federico da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Allora, io pensavo al personaggio, più che un personaggio, un'azienda, direi la Grom, che è stata venduta, cioè è stata comprata da quella società olandese. La Grom, la catena di gelati. Unilever, sì. La multinazionale anglo-olandese. E per la precisione, questa notizia però è della settimana ancora precedente. Quindi diciamo che. Ma questo me l'ho persa io. Quindi Federico. Non è più italiana Grom? No. Ah, però. No, purtroppo. E direi che da questi nostri tentennamenti di nuovo ha scoperto che non era il personaggio della settimana. Però di nuovo siamo molto contenti che grazie, l'abbia nominato. Federico andava, doveva chiamare settimana scorsa, perché la notizia in effetti è di una decina di giorni fa. Comunque, certo, i fratelli Grom e Martinetti hanno detto: no, ma tranquilli, la gelateria continuerà ad essere made in Italy. Però non è più italiana, anglo-olandese. Loris da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Loris? Allora, sempre il personaggio della settimana, secondo me potrebbe essere Max Schrems. Chi? Max Schrems. È un giovane austriaco che ha vinto una causa alla Corte di giustizia europea sulla questione della privacy contro Facebook. L'ha sentito l'applauso? Loris? No. Bene, c'è stato l'applauso. Hai vinto. Hai indovinato, Loris. Perché la notizia ce la stava raccontando è che questo giovane austriaco, dopo la sua tesi di laurea sui dati personali, su internet, non so esattamente, su Facebook in particolare, sì, ha vinto questa, cioè, ha ottenuto risposta dalla Corte di Giustizia Europea, che adesso Facebook è costretta a non portare più i dati personali degli europei sui suoi server in America. Loris, complimenti, grazie. Vinci i due biglietti e il catalogo della mostra da Raffaello Ascile. Bravo, complimenti. Grazie, insomma, è una bella notizia. È una bella notizia grossa, perché lui è uno studente 27enne di legge che ha studiato. Di legge. Quindi la sua era una tesi, diciamo, in campo giuridico. E quindi potrebbe partire una class action. Insomma, sì. La seguiremo. Penso che ne sentiremo ancora parlare di tutto ciò. Come capita spesso, mentre l'America ci sta col fiato sul collo sui gas di scarico delle autovetture europee, l'Europa sta sul fiato sul collo con i colossi Google, Facebook, sulle questioni che riguardano l'antitrust, la concorrenza. Vi ricordate la causa contro Microsoft, adesso su Facebook, sulla questione dei dati personali. Insomma, ci teniamo. Più che il fiato sul collo, parlerei quasi di sguardo dal buco della serratura. Bella questa. Che facciamo? Il traffico? Torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Siamo quasi in chiusura del nostro riepilogo di notizie della settimana, dove è possibile sempre a caccia di buone notizie. Guardiamo un po' anche allo scenario internazionale. C'è una buona notizia: mentre, diciamo, Stati Uniti e Russia si tengono sotto controllo e, insomma, cresce la tensione sulla crisi siriana, sui raid russi in Siria, in Libia invece le fazioni riunite avrebbero trovato un aggiunto per il avrebbero raggiunto un'intesa. Sì. Per il nuovo governo di unità nazionale. La Libia per noi è cruciale perché da lì partono gli sbarchi, ma è soprattutto una polveriera. Vediamo se il mediatore dell'ONU veramente è riuscito a trovare un'intesa in Libia. Intanto l'Italia discute, e lo affronterà il Parlamento, il tema se intervenire anche noi contro l'ISIS in Siria. Il ministro Pinotti. L'Italia nella lotta all'ISIS in Iraq c'è sempre stata, con i nostri addestratori, con i carabinieri e con aerei da ricognizione che partecipano all'operato della coalizione. Eventuali diverse esigenze sulla base del rapporto con gli alleati e con il governo iracheno verranno valutate, ma certamente passeranno al vaglio del Parlamento. Adesso invece un'altra notizia, questa è una bellissima notizia, che viene da Bologna, che riguarda sempre il mondo delle forze dell'ordine e dei nostri corpi armati. la piazza, nel rosso della sera. Rosse palpebre si cullano nei sogni e dolce è l'atmosfera. Questa è per Bologna di Lorenzo Visci, che parla della, tra l'altro della piazza Santo Stefano. Buongiorno al comandante Carlo Di Palma, comandante generale della Polizia Municipale di Bologna. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Piazza Santo Stefano, le sette chiese, uno dei posti più belli da visitare di Bologna, e la vostra iniziativa è questa: vigili a lezione di storia dell'arte perché il comune li vuole ciceroni. Ciceroni, bellissima questa iniziativa. Avete già iniziato? Di cosa si tratta? Beh, la storia è antica, nel senso che a Bologna io sono entrato quasi 35 anni fa nel corpo e non si entrava se, oltre alle varie materie tecnico-giuridiche del concorso, non si superava anche una prova piuttosto, dirò, piuttosto dura sulla storia, l'architettura e i luoghi più importanti della città. Questo è andato avanti fino agli anni 90, poi c'è stato un periodo nel quale, molto presi probabilmente anche dalle attività professionali, si è un po' abbandonato questo e lo stiamo recuperando in maniera molto importante, anche addirittura realizzando una guida che abbiamo fatto tascabile per gli operatori, nella quale, oltre a, ovviamente, a tutte le vie della città, è una grande città, ci hanno anche indicati i luoghi significativi e la storia artistica e umana della nostra città. Sì, ma avverrà su base volontaria questo reclutamento o, diciamo, oppure in qualche modo i vigili tutti dovranno affrontare questo percorso di acculturamento in storia dell'arte? Beh no, chiaramente è uno degli attrezzi della borsa professionale di un operatore, quindi ci mancherebbe il contatto, anzi stiamo lavorando molto all'idea di contatto con le persone, perché è evidente, il nostro è un lavoro che ha anche componenti che ci mettono in difficoltà, in conflitto con le persone, perché ricordare quali sono le regole, farle applicare non è mai simpatico. Le multe. Beh certo, tutti siamo pronti a indicare chi sbaglia, ma quando lo facciamo noi non dobbiamo essere indicati. Il nostro è questo mestiere, quindi stiamo lavorando molto alla comunicazione e al rapporto con i cittadini, quindi prima a partire dagli uomini dei reparti del centro storico fino ad arrivare a tutta la struttura del corpo, che sono circa 600 uomini, intendiamo lentamente recuperare questo attraverso questo percorso, ma ripeto, è un fatto di comunicazione, basti dire che abbiamo anche avviato 40 operatori all'IS, al linguaggio dei segni per i non udenti, proprio bene, perché vogliamo avere quanti più strumenti, ripeto, nella borsa possibile per comunicare. Quando anche sarà tutto pronto, comandante, torniamo a parlarne, così magari ci farà incontrare anche uno di questi vigili ciceroni. Facciamo così? Ah certo, va bene, volentieri. Grazie mille, grazie mille. Mi sembra una bellissima notizia questa di Vigili di Bologna, anche così, se mi permetti una battuta, anche perché forse si possono risolvere in maniera meno discutibile lo sgombero di Atlantide che è stato fatto due giorni fa a Bologna. Ma c'entrano i vigili urbani? C'entrano... Sì, beh, lo sgombero, insomma, diciamo, sono stati portati fuori di peso, c'entrano tutti, giustamente. Allora, velocemente, i titoli del Domenicale con Armando Massarenti, che è anche un'iniziativa importante che riguarda le scuole italiane. Renzo Piano. Oggi sul Sole della Domenica la copertina è un articolo di Renzo Piano in cui disegna la scuola che farei. Una scuola sostenibile, una scuola dove anche accompagnato dalla consulenza di un maestro elementare che è un nostro collaboratore della Domenica, Franco Lorenzoni, ha pensato a qual è la scuola migliore, dove c'è un ambiente chiaramente del tutto consono all'insegnamento e dove che riparte anche questa dalle periferie. Sono nelle periferie il rammendo non solo edilizio ma anche sociale parte proprio dagli edifici scolastici, dice Renzo Piano, che sono i veri laboratori dell'integrazione, sono i veri laboratori dove possono nascere le menti aperte, che sono quelle che noi abbiamo sempre caldeggiato sulle pagine della Domenica. E allora è un documento importante quello che potete leggere oggi sulle pagine del supplemento Domenica di Renzo Piano, che si lega strettamente agli investimenti che sta facendo il governo Renzi e ha un grande progetto con uno stanziamento di 300 milioni di euro in cui INAIL sarà la protagonista per la costruzione, appunto, il rammendo delle periferie italiane, appunto, a partire dalla scuola. Allora, Allora, siamo in chiusura, io dico solo una cosa: appuntamento a Villa di Mezzabarba a Borgarello in provincia di Pavia oggi per il recupero della storica residenza settecentesca. Chi è di quelle zone conosce questa storia, una storia bellissima. Mezzabarba a Borgarello oggi. Io invece dico semplicemente che oggi alle 18:30 al Teatro De André sarò a Casal Grande in provincia di Reggio Emilia a presentare il mio libro Fossi in te io insisterei, e poi il 15 invece sono a Colle Valdelsa alla biblioteca, sempre alle 18, sempre nel Senese in Toscana. Toscana. Grazie ad Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, grazie a Claudia Schiattone, a Lorenzo Nespoli oggi in assistenza in diretta, Paolo Corleoni in regia. Un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, a quelli che ci ascolteranno in podcast. Perfetto, pensavo che ci sia quelli che ci ascolteranno in generale, invece a quelli che ci ascolteranno in podcast, e buona domenica a tutti. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao.